Vi confesserò di non essermi particolarmente scandalizzato per una volta per quel purtroppo che il Presidente del Consiglio si è lasciato sfuggire in Parlamento mentre ricordava chi lo esortava a vietare la prevista manifestazione gay di Roma, che in Italia c'è una Costituzione che riconosce ai cittadini taluni diritti che nessuno, e lui meno degli altri, può permettersi di ignorare. Ha detto sì che la Costituzione c'è, purtroppo, ma che un capo del governo consideri la Costituzione come una iattura può lasciare perplessi, ma in fondo si può capire. Noi siamo avvezzi a pensare a quel tipo di leggi come una specie di quadro valore neutrale cui tutti, governo e cittadini, fanno concorde riferimento, e chi non ci sta peggio per lui, ma in realtà le Costituzioni sono tutto fuorché pacifiche o neutrali. Le hanno inventate proprio con lo scopo preciso di imporre ai governanti dei vincoli cui attenersi nei rapporti con i governati, ed è abbastanza ovvio che chi detiene il potere, a qualsiasi titolo lo detenga, non le veda particolarmente di buon occhio. Stringi, stringi, rappresentano sempre un limite alla sua libertà d'azione. Di solito si ritiene che la prima Costituzione in senso moderno sia la Magna Carta Libertatum inglese del 1215, e non sarà un caso se le cronache ricordano come colui che la promulgò, il re Giovanni Senzaterra, che non era poi così cattivo come sembra nei cartoni animati di Robin Hood, abbia passato la notte precedente alla firma gemendo e strappandosi la barba in segno di stizza, e se alla fine si decise a firmare lo fece soltanto perché i baroni avevano avuto l'accortezza di imporre come sede della cerimonia un castello particolarmente ben fortificato attorno a cui si erano schierati in armi. Senza che sia necessario giungere a tanto, è abbastanza normale che chi riveste responsabilità di governo, fosse anche il Presidente del Consiglio di una Repubblica parlamentare, consideri Costituzioni e Statuti soprattutto una gran rottura di scatole. E quell'avverbio in fondo può essere considerato un'insolita manifestazione di sincerità. Nonché un monito di cui tener conto la prossima volta che ci verranno a dire, come ha fatto l'altro giorno Pio Formigoni, che la Costituzione è superata e sarebbe ora di decidersi ad emendarla. No, io trovo più preoccupante nell'intervento del Presidente Amato quel passaggio in cui assicura, essendogli stato richiesto di garantire lo svolgimento di un corteo, che è la forma in cui si estrinseca da quando esiste il Gay Pride, di essere più che disposto ad accedere alla richiesta, a patto naturalmente che i promotori acconsentano a loro volta a svolgere la loro manifestazione in forma stanziale. Al di là delle motivazioni addotte, che sono, a quanto sembra di capire, gli eterni motivi di ordine pubblico a cui l'autorità ricorre da sempre per negare qualsiasi cosa a chiunque, l'affermazione non può che lasciare perplessi, perché un corteo stanziale, e salvo errore, non è stato ancora inventato. Per cui o quella dichiarazione è un puro gioco di parole, un modo per affermare una cosa facendo mostra di sostenere il contrario, che è una pratica da cui sarebbe bene che i presidenti del Consiglio si astengano, o rivela una situazione mentale un po' disturbata. È vero che Amato di questi giorni ha i suoi problemi, visto che i suoi sostenitori sono riusciti a fargli perdere un referendum sul quale lui si era dichiarato neutrale, a cui probabilmente era contrario, ma dovrebbe fare lo stesso uno sforzo per controllarsi. D'altro canto, il ragazzo non è nuovo a circonlocuzioni logiche di questo tipo. È lui in fondo che pretende una legge elettorale di tipo proporzionale che salvi i principi del maggioritario. Ed è sempre lui quello che si prefigge di salvare la sinistra dalla catastrofe elettorale gestendo da Palazzo Chigi una politica solidamente di destra. E di fronte a una logica così refrattaria al principio di non contraddizione ci si può aspettare di tutto, come appunto la pretesa, non potendosi negare in nome della Costituzione i diritti civili di un certo numero di cittadini, di vanificarli per fare un piacere al Papa in nome dell'ordine pubblico.